c'è il rischio che il greggio possa arrivare a $200 al barile. La preoccupazione è forte tra i capi di Stato e di governo del G8. Silvio Berlusconi spiega che se ne è discusso nella prima giornata del summit in Hokkaido, anche se la mancanza di tempo ha impedito che si mettesse nero su bianco un comunicato sulla materia. Ma mettere un freno alla speculazione per il governo italiano è essenziale e qui il Premier rilancia la proposta avanzata dal Ministro dell'Economia Tremonti di intervenire sulle borse, aumentando e di molto i margini di deposito sui contratti di future, oggi al 5%, e c'è chi li vorrebbe portare addirittura al 50%. Nella prima giornata del vertice G8, dedicata ai paesi in via di sviluppo, Berlusconi si sente anche in totale sintonia con l'appello del Papa ai leader del G8 perché affrontino i problemi della povertà e del sottosviluppo. Sull'ampliamento del G8 alle economie emergenti, tipo Cina, India, Sudafrica, Brasile e Messico, secondo Berlusconi deve rimanere un foro di dialogo dell'Occidente. Quindi no alla proposta di Sarkozy, sì a quello che dice Bush, e cioè mantenere l'attuale formato. Gerardo Pelosi, GR24, Il Sole 24 Ore, Togliaco.